24 mattino, l'Italia si desta. Mila caffè, li ho già presi perché sono stanco di stare al volante, vorrei arrivare entro sera da te. Che aspetti me. E buona giornata, buon mercoledì, un saluto da Anna Migliorati, tutti pronti, tutti svegli, eccolo, eccolo il nostro caffè. Anche questa mattina un buon caffè da Radio 24, Lorenzo Nespoli, Carbero Lauricella, da Anna Migliorati ancora buona giornata. Cominciamo, siamo qui prontissimi per cominciare anche la giornata di oggi. Attimo, ci diamo il bacio più dolce. Vi sentite più twittarini o twittellini? Tra poco capirete perché vi ho fatto questa strana domanda. Intanto abbiamo offerto il nostro caffè, abbiamo buttato giù dal letto questa mattina Massimo Arcangeli, direttore dell'Osservatorio della Lingua Italiana Zanichelli. Buongiorno. Buongiorno. E Alessandro Giglioli, giornalista dell'Espresso, benvenuto. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, voi il vostro caffè l'avete già bevuto, ve lo offriamo noi virtualmente, eccolo qui. Vi ho fatto questa strana domanda perché? Perché lo sapete che siamo riusciti a creare anche un vocabolario per Twitter, anzi, com'è che si chiama Arcangeli? Twittabolario. Allora 349-238-6666, cominciamo a chiederlo anche ai nostri ascoltatori. Avete inventato delle nuove parole andando su Twitter, scrivendo su Twitter? È vero che sta cambiando così tanto la lingua italiana anche per Twitter? La lingua italiana sta cambiando molto anche per l'intervento dei nuovi mezzi di comunicazione, questo lo sappiamo, però va ricreata dall'interno e questo vocabolario, che vuole essere un'iniziativa giocosa ma si lega seriamente al 750enario della nascita di Dante, ha proprio questa intenzione di ricreare dall'interno della lingua per creare parole che possano o colmare i vuoti o consentire di giocare proprio con le parole, ma sulla base della composizione che l'italiano offre. Siamo però abbastanza portati a farlo, diciamo, un po' come popolo italiano. Sì, no? Però sì, lo facciamo, però meno rispetto al passato. Qualche anno fa io lanciai un'iniziativa analoga proponendo di tradurre in forma creativa alcuni anglicismi. Perché? Perché la maggior parte ormai delle voci nuove provengono dall'ambito dell'anglo-americano. Ne uscirono delle cose bellissime, per esempio blog fu tradotto con digidiario, chat fu tradotto con blabele, lo spamming divenne un digiluvio postale. Ecco, forme ovviamente creative, anche divertenti, che possono dare la sensazione che l'italiano continua ad essere una lingua viva. Ma chi sono i twittarini e i twittellini? Sembrano un po' delle frittelle. Sono traduzioni creative appunto dei cinguettatori. Un twittabolario può diventare un cinguettario, e anche in questi casi se noi siamo attenti al modo in cui si compongono le parole, twittarini che può far rima con canarini, twittellini che può far rima con uccellini, cinguettario che riproduce un processo formativo perfettamente italiano, sono certamente invenzioni creative ma anche rispettose del modo in cui l'italiano si compone nelle sue parole. Giglioli, tu hai inventato qualcosa, che ti pare? No, io non ho inventato assolutamente niente tutta la mia vita, ma per non carità. Solo come linguaggio, in generale, proprio nel corso della mia ormai lunga esistenza. Io uso da molti anni questi social network, in generale i mezzi di comunicazione che portano a una contaminazione del linguaggio. La mia impressione da esterna, ma non sono sicuramente un esperto, è che la contaminazione del linguaggio avviene in modo spontaneo, automatico, e che la vivacità della lingua italiana sta anche nel suo assorbire invece parole da altre lingue, magari poi coniugandole, no? Come si dice, googlare piuttosto che anche downloadare. Sono un po' tremendi, ma il linguaggio vero, quello delle persone, poi non rispetta né le ortodossie nazionali né i nostri gusti, va avanti un po' per i fatti suoi, vive di vita propria. Io mi trovo, anche perché frequento molte persone di età molto più giovane della mia, spesso a contatto con persone la cui lingua a volte non riesco a capire neanche io, e che anch'io verso la quale anch'io ho dei, come dire, delle reazioni uguali alle tue, no? E però la lingua è quella, quella viva è quella, non è quella che creiamo. Arcangeli, è una questione di età? Addosso. No, non è una questione di età, è una questione semplicemente di creatività, e la creatività si innesca quando noi inneschiamo processi virtuosi. Non ci dobbiamo né allora non buttarti giù, Giulioli, pare che no, ce la possiamo meno male, fare. Questa è una buona notizia, Martina, dai. È un modo semplicemente per riscoprire, sfruttando le regole interne di una lingua, le potenzialità di una lingua. Ovviamente si può anche giocare, ecco perché questo twittabolario in realtà gioca molto. Ci sono alcune definizioni d'autore che mano a mano arrivano, ne propongo un paio per far capire anche il modo in cui si può giocare, costruendo definizioni su queste parole. Per esempio Cremlino, scritto con la C, dal latino tardo cremum, che è la parte, diciamo, spesso opaca che affiora sul latte, è un grande dolce natalizio alla crema, tradizione della Moscovia. Oppure Rigoletto, dal personaggio ovviamente dell'opera Rigoletto di Verdi, è un individuo, una circostanza che ricorda la tragica vicenda di Rigoletto, il buffone vittima del destino e dei capricci dei potenti. Sono due voci d'autore di Marco Fulvio Barozzi che danno anche l'idea di come si può giocare seriamente anche alla costruzione di significati alla base di questo twittabolario. Vabbè, qualche idea ce la sta mandando ai nostri ascoltatori, 349-238-6666, le aspettiamo. Giulioli, ieri Silvia Brasca ne ha inventato uno, si è definita expottimista. Allora abbiamo deciso che questa settimana facciamo un po' questo sondaggio. Tu sei expottimista o expopessimista? Oddio, io sono expottendista, da milanese, per quanto fuori sede ormai. La terza via ci piace sempre. Spero che vada tutto bene, no, è che non ho seguito da lettore con molta attenzione, un po' anche da giornalista, per quello che abbiamo fatto al nostro giornale, tutte le varie tappe di avvicinamento, mazzette, mica mazzette, corse contro il tempo, stop, go, eccetera, eccetera. C'è un'altra puntata, adesso manca un pezzo, cioè chi si arrabbia. Non sono sicuramente un expo gufo, per usare expo gufo, un'espressione un po' del nostro Presidente del Consiglio, che dice che io sono uno che spera che funzioni tutto. Ho qualche dubbio, mi pare che anche l'altro giorno Pisapia abbia ammesso che non tutto sarà pronto per l'inaugurazione. Vedo che anche i capi di Stato e di Governo cercano di non andare in inaugurazione per evitare di essere coinvolti in quella che rischia di essere, non dico una brutta figura, ma una figura quantomeno dimezzata. Ma quasi, insomma. Arcangeli, expo gufo, possiamo metterlo nel nuovo twittabolario? O non certo, ci sta? In questo caso giochiamo anche con i prefissi dell'italiano, quindi ben vengano tutte le formazioni che possono dare l'impressione che la composizione o semplicemente la derivazione siano processi attivi, come di fatto sono, quindi... Expo gufo, è uno l'abbiamo trovato. Allora, a proposito di giochi di parole, vi faccio sentire anche questo. Accanto chi c'è? Accanto alla Giannini? Poletti, abbiamo il Jobs Act con l'attuazione dei decreti del Jobs Act, poi accanto adesso c'è Lupi con tutto il tema delle Lupi, adesso c'è Del Rio al posto di Lupi, vado in mente sui singoli posti del Consiglio dei Ministri. Beh, se c'è qualcuno che con le parole ci gioca, Giulioli, l'abbiamo appena sentito. Ma Renzi, sì, più che inventare parole, per quello io una volta mi ero occupato del linguaggio di Renzi, visto che è uscito anche di recente un libro proprio su questo, scritto da un professore di letteratura. Il linguaggio di Renzi è molto interessante dal punto di vista dell'analisi, perché lui non è che raramente inventa alcune parole, ma usa parole già inventate per caratterizzare il suo messaggio. Per esempio lui usa moltissimo il noi, in cui include tutti, e il loro, in cui include tutti i nemici. È uno stratagemma retorico molto usato da Renzi. Usa molto la parola sorriso, no? Vuol far vedere che lui è sempre sorridente, ottimista. Ha una precisa tecnica linguistica Renzi, come ce l'aveva anche Berlusconi, come ce l'hanno alcuni fra i politici che hanno un po' studiato come comunicare. Poi Renzi ha anche un linguaggio non verbale molto forte, perché noi parliamo spesso delle parole, ma oggi in politica, specialmente con la televisione, conta molto anche il linguaggio non verbale, l'espressione del volto. L'hai visto ieri? C'è chi dice che ieri, insomma, un po' di smalto l'ha perso nel presenta. Guarda, io credo che più che una questione di smart, posso sbagliarmi naturalmente, ma sono chiacchiere appunto da bar, come siamo qua. Sì. Il caffè è sempre qui. È un po' l'effetto marziano a Roma, cioè sei presente marziano a Roma, quando all'inizio tutti a Roma si interessano al marziano, questa grandissima novità, e poi dopo un po' alla fine del libro dice Marzia scansate, no? Cioè alla fine non è più interessante per nessuno. Non dico che Renzi sia già a questo punto, ma sicuramente l'effetto innovativo, vuoi del suo linguaggio, vuoi del suo body language, vuoi anche del suo modo di porsi rispetto alla politica, non è più così dirompente come era un anno fa. O forse tutti ci aspettiamo sempre il colpo di genio. Beh, le aspettative altissime, questo è un'altra delle sue caratteristiche. Che è un problema, perché poi bisogna sempre alzare il tiro. Sì, sul lungo è un problema, finora gli è sempre andata bene sotto ogni punto di vista, anche di consenso. Indubbiamente creare aspettative altissime sia dal punto di vista dell'economia sia dal punto di vista della usa moltissimo anche la parola rivoluzione, ad esempio è una parola che usa tantissimo fin dalle prime Leopolde. Quando crei un'aspettativa molto alta, poi rischi di dover alzare sempre il tiro e dover vivere in un clima di perpetua attesa di qualcosa di meraviglioso, di radioso che sta per accadere, rischia poi di ritorcersi contro, almeno sul lungo termine. Per ora non è ancora successo. Un gran twittatore, tra l'altro, ma seriale, possiamo definirlo twittatore seriale. Arcangeli, com'è il linguaggio di Renzi? Allora, io anche me ne sono occupato più di una volta per Repubblica e in altre circostanze. Renzi esprime per certi versi una tendenza dal punto di vista linguistico piuttosto interessante, perché io definirei pop snob, perché per certi versi certamente prende largamente spunto dai precedenti, viene in mente, cioè, senz'altro Berlusconi, ma innova anche legando quel che è alto a quel che è basso. Penso a tanti anglismi che la maggior parte o buona parte degli italiani non comprende o non comprenderebbe, che lui usa spessissimo in tantissime occasioni in cui magari potrebbe usare termini più alla portata di tutti, ma penso anche alla capacità che ha, che per certi versi è anche notevole, di parlare alla gente comune. Quindi è uno strano fenomeno che coniuga proprio ciò che è alto e ciò che è basso. Per certi versi parla un po' itanglese, o se vogliamo un inglesorum che si ispira al latinorum che conosciamo bene. Per altri versi invece è aderente, molto molto aderente, ha un linguaggio per l'appunto pop, che tiene conto di qual è la percezione che ha la gente anche del modo in cui riesce ad abbassare il registro. Quindi questo è un fenomeno piuttosto interessante. Ha fornito materiale per il twittabolario anche lui, non è possibile? Tutti i Twitter che manda qualcosa vi avrà fornito, no? Sì, ma come è stato già detto, lui non è che inventi cose particolari, più che altro ripete in modo più o meno scanzonato, un po' riutilizza bene, insomma. Sì, riutilizza allora, bene. E sentiamolo allora, ancora un pezzettino della conferenza stampa di ieri. Se leggete i giornali di oggi, c'è scritto che noi stiamo facendo una manovra da 10 miliardi di euro, che stiamo facendo tagli, che stiamo aumentando le tasse. Tutte queste cose stanno nella categoria delle frasi false. Giglioli, sempre colpa dei giornalisti, Beh, Renzi ha un po' questa caratteristica di prendersela con tutti i cosiddetti intermediatori, cioè tutti coloro che si possono frapporre in qualche modo, sia nel linguaggio, sia nella comunicazione, ma anche poi nelle decisioni, fra sé e il popolo, fra sé e le persone, fra sé e la gente. E quindi questo rientra un po' nel noi e nel loro di cui si parlava prima. Cioè Renzi racconta una narrazione in cui ci siamo noi, lui si riferisce a un noi abbastanza indefinito, che sono coloro che vogliono salvare il paese, innovare, cambiare, rottamare, migliorare, riformare, eccetera, eccetera. E d'altra parte un indefinito loro. In questo indefinito loro lui ci mette tutti gli intermediatori, i sindacati, i giornalisti, che sono categorie tra l'altro poco amate entrambe. E lì è facile sparare. Non è strano che scelga questo, sceglie le categorie evidentemente poco popolari. Noi giornalisti siamo fra gli ultimi, credo, ma anche... le recenti classifiche, ma insomma ci siamo sempre piazzati benissimo. Anche molti giudici, insomma lui crea un indefinito loro, in cui questo loro è il mondo dei frenatori, dei gufi, dei rosiconi, di tutti coloro che si oppongono a lui. in questa narrazione molto semplificatoria, ma che indubbiamente ha una sua efficacia, crea una divisione manichea fra buoni e cattivi, che consente a lui, questa è la cosa più importante di tutti, lo dico come forte critica politica, consente a lui di non andare quasi mai nei contenuti delle cose, perché se tu, quando analizzi ad esempio una legge, che ne so, che sia una legge elettorale o che sia una riforma del lavoro, dividi il mondo fra dividi il mondo fra innovatori e frenatori, questo ti consente poi di non parlare dei contenuti effettivi della legge, perché un'innovazione può essere positiva, può essere negativa, o comunque la si discute nel merito, nel contenuto. Quello che io vedo nella comunicazione di questo governo è una scarsissima predisposizione a confrontarsi sui contenuti e una grande tendenza a giocare con le parole. Noi, loro, frenatori. Certo. E allora aspettiamo ancora i vostri suggerimenti, 349-238-6666, anche questo, questione di linguaggio, qualche suggerimento per questo nuovo twittabolario, vi sentite twittarini o twittellini, c'è il traffico e subito dopo noi siamo sempre qui. 24 mattino. E parlando di linguaggio della politica, ma non solo, non c'è solo Renzi, c'è anche qualcun altro che ama molto giocare con le parole. Matteo Salvini, anche lui ha inventato in qualche modo un nuovo linguaggio, però sono ancora le 6:47, possiamo ancora fare chiacchiere davanti al nostro caffè. Indubbiamente Salvini si fa parlare di sé in questo ore anche per la fuga nella notte con la Isoardi, c'è chi che finalmente svela la coppia Salvini-Isoardi. Siamo andati a ripescare uno dei loro primi incontri, anzi il primo incontro in TV, allora ve lo facciamo risentire. Finalmente avendolo qua in studio, avendo, in carne ed ossa, avendo Matteo Salvini in collegamento. No, ce l'abbiamo sempre in collegamento. Matteo Salvini, segretario della Lega Nord, benvenuto. Grazie, non vado più via, una volta che arrivo qua mi fermo qua. Bene. Elisa, la domanda si fanno. Guarda, io sto sentendo questa intervista e sono veramente allietata. La domanda sì, perché ogni tanto la mia mamma mi dice, quando vai in televisione sorridi perché sei sempre arrabbiato. Però ogni quasi tanto me le tirano fuori. Ultimamente nei nostri collegamenti sì, devo dire. La domanda sì. Che perché l'Europa la cambi da Bruxelles, l'Europa che impedisce la pesca nel Mar Ligure, l'Europa che danneggia l'agricoltura siciliana, l'Europa che decide come si fa il formaggio in malga, esatto, sulla D'Amelio. Esatto, ma esatto. Fammelo fare in malga. I nostri formaggi. Qua c'è un'alleanza in minoranza. Un'alleanza di malga. Quindi Giglioli, meraviglioso. Forse si capiva già tutto lì. Come la vedi la coppia? Ma no, io della coppia so pochissimo delle vicende erotiche di Salvini, gli auguro a lui e alla sua compagna tanta felicità e serenità, magari questo lo rende anche un po' meno rabbioso nella vita. Ma sorride un po' di più, come dice la sua mamma. Sorride un po' di più, Salvini ha un linguaggio volutamente terra-terra e questo non è una grandissima novità, lo sappiamo da molto tempo. Un po' tempo. La tradizione Salvini della Lega in qualche modo. Ma Salvini anche, sì, è un po' la tradizione. Però l'ha modificata, il linguaggio. Salvini è uno che... È un altro che ci ha puntato molto. Che seguivo quando era consigliere comunale a Milano, è sempre uno che ha fatto politica, io sono lontanissimo dalle sue idee, sia ben chiaro, ma è uno che ha fatto politica proprio partendo dai mercati, delle strade, eccetera, e quindi ha metabolizzato il linguaggio giusto per parlare nei mercati, nelle strade, prima soltanto ai milanesi al nord, adesso che la Lega vuole diventare un partito nazionale cerca con molta difficoltà di parlare anche a sud di Roma, ma il suo linguaggio così fatto, così terragno, così fatto di piccoli esempi, no? Il tostapane che la UE ci vuole imporre di fare in un certo modo, è proprio finalizzato a creare una sintonia con le fasce meno alfabetizzate, meno politicizzate del paese, quindi non è di per sé una cosa negativa. Guarda che qualche esempio simile l'abbiamo avuto anche in passato, ad esempio con Di Pietro. Di Pietro non è vero che non sapeva usare i congiuntivi, Di Pietro parlava così apposta per creare una... Se tu sei convinto che i congiuntivi li sapesse? Ma io qua ho parlato tante volte con Di Pietro. E usava i congiuntivi. Parla, magari ogni tanto gli scappa un'espressione popolana, ma non ha niente di meno di un qualsiasi politico. Ma a questo vale anche per l'inglese di Renzi, il Globish o l'anglo-italiano di Renzi. Si fa così, parla così, in quel modo lì. Non dico che Renzi in realtà parli un inglese ossoniense, ma dico non si vergogna a parlare in quel modo lì perché parla come... parla un inglese scadente come la maggior parte, ahimè, degli italiani di 40-50 anni parlano quell'inglese lì, quell'inglese. Ma lui non si vergogna, non fa finta di saperlo. Si butta davanti a tutti. Allo stesso modo Salvini parla popolano, allo stesso modo Di Pietro parlava popolano. È un modo per creare sintonia con fasce di popolazione che sono sempre più lontane da chi parla politichese, da chi parla con troppe... perifrasi. È sempre un modo per distinguersi, no? Arcangeli, l'italiano di Salvini com'è? Beh, molto diverso da quello di Renzi. Renzi, il politichese, ancora c'è per quel che dicevo prima. Salvini, prendendo spunto anche da quel che ha fatto recentemente, potrei dire che spoglia le parole, le spoglia letteralmente. In questo caso le riduce davvero a parole per certi versi terra terra. Ma spoglia le parole semplici e le rende ancora più semplici di quello che sono, così come spoglia però le parole più complesse, per cui magari in bocca a Salvini parole come democrazia o come giustizia o come libertà, seguendo peraltro una deriva che conosciamo ormai perfettamente bene, sono ancora più liberate da diciamo accessori di significato che le rendono proprio talvolta utilizzate come fosse clave. Quindi la democrazia e la giustizia e la libertà e tante parole complesse che invece andrebbero in molti casi, soprattutto nel linguaggio della politica, approfondite e su cui si dovrebbe riflettere a fondo proprio per la stratificazione che ciascuna di queste parole ha. In Salvini, non solo in lui, ma in lui il fenomeno è molto più evidente, queste parole vengono private di qualunque accessorio, quindi vengono proprio talvolta sfruttate nella loro essenza più semplice perché arrivino a... Io continuo a chiedermi se ci sia poi tutto questo riflettere dietro e se sia davvero con strategia così misurata. Chissà, secondo voi lo è o no? Pancia a terra, lavorare. Se vinciamo, oltre che in Veneto, in un'altra regione rossa, Renzi se ne va a casa il giorno dopo. Pancia a terra, anche tutte queste espressioni, ma Alessandro Giglioli, tu sei davvero convinto che sia tutto controllato, misurato, preparato? O un no, po' gli viene anche spontaneo? È un buon misto fra una naturale predisposizione che ci deve sempre essere, perché se poi da lì di essere falso ottieni l'effetto opposto, e comunque una naturale predisposizione che si mescola però anche a una riflessione, non che, ripeto, non c'è niente di male a farlo, quale che sia il linguaggio che uno sceglie, una naturale riflessione su come entrare in sintonia, certo, con quella che viene chiamata la, certo, pancia del paese, con un'espressione un po' la bruttina. La pancia è veramente tremenda. E i nostri ascoltatori ci ricordano di Razzi, ma lì sicuramente gli viene spontaneo, non abbiamo dubbi. E poi Grillo, beh, però Grillo è mestiere, lì è proprio un mestiere vero. Chiedi a me? Sì, ma sì. Sicuramente è un attore, quindi sa parlare, sa conosce i ritmi, conosce i modi con cui si possono creare le emozioni negli spettatori, ma anche qui, e ripeto, anche in questo caso, è un misto fra una naturale predisposizione e uno studio, una riflessione. C'è anche questo. Vabbè, abbiamo voluto un po' giocare anche su questo, sul linguaggio, questa mattina, approfittando di Alessandro Milan, che lo lasciamo ancora qualche giorno in vacanza, poi ve lo rimandiamo. Grazie intanto, un po' timidi i nostri ascoltatori su questo nuovo twittabolario. Sul lancio di questa iniziativa. Sì, il twittabolario arriva alla Festa della Scienza e la Filosofia di Foligno, giusto? Sarà presentato domani. Sì, sì. Domani. Sarà presentato domani. E allora abbiamo ancora tempo per qualche domani. Suggerimento. L'Expo Ottimista e l'Expo Grillo, quello ve lo regaliamo subito. Grazie allora intanto a Massimo Arcangeli, direttore dell'Osservatorio della Lingua Italiana Zanichelli, grazie a Alessandro Giglioli, giornalista dell'Espresso. Buona giornata, ancora un caffè e chiudiamo questa parentesi di chiacchiere, c'è GR24, torniamo poi con la rassegna stampa. 24 mattino. Ed eccoci,

Ultima segnalazione, sì, ancora un istante ce l'abbiamo. Beh, ultima segnalazione, parlavamo prima della corsa agli Stati Uniti, ebbene, ecco, la rivolta dei Navajo, degli indiani Navajo in America, non con frecce e arco, ma contro il cibo. Spazzatura, boom di diabete e obesità, scrive il Fatto Quotidiano, questa la storia che arriva dagli Stati Uniti, boom di diabete e obesità dopo che gli Stati Uniti li hanno sommersi con gli alimenti delle multinazionali, ora la tribù contrattacca e tassa il junk food, la rivolta dei Navajo ora è contro il cibo spazzatura. Anche questo sui quotidiani di oggi, spunti come sempre di riflessione. C'è il giornale radio, noi ci risentiamo subito dopo. 24 mattino. Globale, da Parigi alla Nigeria, dal Kenya alla Siria, dalla Libia al Belgio, come scrisse qualche settimana fa l'inviato di guerra Domenico Quirico sulla Stampa, davvero l'ISIS ha dichiarato una guerra globale, davvero i vari gruppi affiliati sparsi attorno al Mediterraneo sono scollegati tra loro senza un unico scopo o dietro c'è una visione unica, un'altra Srebrenica. Denuncia l'ONU, cosa dobbiamo fare? Intervenire. O cosa? Ancora una buona giornata da Anna Migliorati, 8 e 19 minuti, apriamo questa finestra questa mattina per tornare su un tema che è al centro delle discussioni di questi giorni, soprattutto dopo le parole di ieri del ministro degli esteri Gentiloni, che sostanzialmente ha detto inutile nascondersi dietro un dito, alla fine l'opzione militare va quantomeno valutata. E soprattutto ci stanno anche le parole di Papa Francesco, che ha invitato ad intervenire. Sì, ma come? E allora saluto gli ospiti di questa mattina. Khaled Fouad Allam, professore di sociologia del mondo musulmano alla Sorbona di Parigi. Buongiorno. Buongiorno. Domenico Mogavero, vescovo di Mazara del Vallo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, la prima domanda è doverosa, è questione di cristiani e musulmani, è questione di scontro tra civiltà, è guerra globale, Allam? Ma c'è un po' di tutto, mi sembra evidente che l'ISIS o Daesh tende ovviamente a raccogliere tutti gli elementi che questi ultimi 30 anni hanno fatto sì che il radicalismo islamico si è completamente nutrito della questione dell'Occidente, della questione della democrazia, della questione di Islam sì, Islam no, della questione delle minoranze religiose nel mondo musulmano e non solo, e questo fa sì che in un certo senso c'è un'ideologia che è nata, che è di tipo fascista, nazista, mi sembra oggi evidente. Gerd Lerner sulla Repubblica parla di un Islam impazzito. Sì, poi la parola impazzito vuol dire tutto e niente, è un'ideologia estremamente pericolosa che tende a fare emulsione purtroppo su gran parte dei nostri giovani, sia all'interno del mondo arabo-islamico che di tutto l'Occidente, mi sembra evidente questo. Questo è da mettere anche in parallelo, in un certo senso, alla questione stessa dell'Occidente, non voglio dire della decadenza dei valori, ma di un mondo che è in crisi e che sta ricercando se stesso, mi sembra evidente. Questo spiega in parte, dico spesso in parte, il fatto che ragazzi che sono nati e vivono in Europa tendono a sbarcare il confine fra la Turchia e la Siria e battersi in nome dello jihad. A me mi sembra evidente che è un'ideologia completamente. È una guerra globale. È una guerra globale. È globale nel senso che comunque il discorso, basta leggere i testi che io ho tradotto nel mio ultimo libro, che loro l'ISIS o Daesh, come lo si dice adesso, si rifà a un califato mondiale. Ecco, Daesh non ISIS, o ISIS, o Jihad, Daesh. Ma sì, Sì, ma io preferisco utilizzare il nome ISIS perché c'è stato veramente l'intento, a parte che non è più soltanto intento, è una realtà, di creare uno Stato che si rifà a questo, e questo Stato ha una territorialità fra l'Iraq e la Siria, e che sta estendendosi sempre di più dall'Iraq alla Siria, passando a delle zone oggi che sono l'Africa subsahariana, eccetera, man mano che altri gruppi che si assimilano all'ISIS tendono ad aggregarsi a loro, ma è una guerra globale perché viviamo l'epoca della globalizzazione, della mondializzazione, in questo senso sì. E è territoriale, e anche questo è un punto importante, perché non è più solo un'ideologia, ha un territorio. Ci sono zone però dove la minoranza sono i cristiani, e l'appello di Papa Francesco è stato chiarissimo, come lo sono state in realtà le parole di Monsignor Bernardito Auzza, che è l'osservatore permanente della Santa Sede alle Nazioni Unite, e che ha detto sostanzialmente che i cristiani sono a rischio di estinzione in Medio Oriente. Monsignor Mogavero, è così? È una questione di musulmani e cristiani ancora una volta nella storia? Io ritengo che la situazione attuale non ci autorizza a mettere di fronte senza altre precisazioni queste due esperienze religiose per dire che oggi l'Islam ha dichiarato guerra al cristianesimo e vuole annientarlo. Qui bisogna precisare che ISIS e tutto ciò che è riducibile al califfato e alle forme e alle vicende che hanno caratterizzato queste ultime settimane rappresenta una frangia, tutto sommato, un aspetto, un elemento del mondo islamico che si ribella a ogni identificazione con questa realtà estrema, violenta, aggressiva, persecutoria. Io non penso che oggi come oggi si possa parlare di guerra di religioni o di scontro di civiltà. Certamente non bisogna sottacere che ci sono delle responsabilità immediate e lontane, dirette e indirette dell'Occidente nel guardare a questo mondo con atteggiamento che va così dalla ignoranza all'indifferenza, alla sottovalutazione della complessità di una realtà sociale, culturale, politica e religiosa che è molto distante dai nostri orizzonti. Oggi è un po' sottovalutato, come si fece, come appunto si è detto all'ONU, è un'altra Srebrenica in qualche modo? Ci sono degli elementi che potrebbero essere ricondotti a una valutazione di questo genere, soprattutto se ci appelliamo a certe frange che sono anch'esse radicaleggianti all'interno della realtà occidentale. Ma oggi quello che il Papa denuncia non è tanto una guerra di religioni o uno scontro di civiltà, quanto piuttosto la disattenzione nei confronti di un fenomeno che sì, probabilmente potrà anche prendere in considerazione l'opzione militare, ma prima di ogni cosa deve prendere in considerazione l'opzione dialogica. Bisogna trattare non tanto con questi che probabilmente non sono l'interlocutore appunto, più adatto. Esatto, una via di dialogo con l'ISIS pare assolutamente impossibile da aprire. E allora in con questo chi? Momento sicuramente, in questo momento sicuramente è una via non proponibile, però il mondo musulmano non può essere identificato con l'ISIS, altrimenti veramente ci precludiamo qualsiasi possibilità che non siano le bombe e la distruzione di tutto ciò che può rappresentare questa forza violenta e aggressiva nei confronti di tutta la cultura occidentale, oltre che della realtà religiosa, perché non dimentichiamo che la lotta al cristianesimo parte dal presupposto che il cristianesimo viene identificato con l'Occidente, più o meno colonizzatore, più o meno nemico, più o meno come dire, ultramoderno. È una questione di cristianesimo appunto o di sovrapposizione tra le due cose? Non credo che sia una questione di cristianesimo in quanto tale, perché la valutazione non è di tipo solo religioso, cioè lì c'è il lo spunto, il pretesto è tu non conosci il Corano, dunque non sei dei miei, io ti faccio fuori, e questo è l'episodio è la base di Garista. Certo. L'episodio di Garista. Però alla base di tutto c'è una incomunicabilità di cui stiamo scontando oggi i frutti e le conseguenze. L'Occidente è stato restio, molto restio, a trattare con il mondo arabo sul piano culturale e religioso. Ha trattato col mondo arabo quello che gli interessava. Sul piano economico e politico. Esatto, esatto. Sul piano economico e politico. Dei commerci e delle alleanze, perché le alleanze ci sono state, ma sfruttate non tanto a fini di valori quanto a fini di utilità immediata. E oggi le conseguenze le paghiamo così. Le paghiamo così. Non fa un po' specie, però, lei stesso ha detto, non solo l'opzione militare, però dietro a tutti questi non sono, e intanto però l'opzione militare salta sempre fuori. E salta fuori perché inevitabilmente quando le armi della ragione non sono utilizzabili, sorge fuori come estremo rimedio quello di dire ti fermo con detto con da uomini di chiesa, però fa specie, no? No, io non ho sposato l'opzione militare, no, voglio dire, non mi riferisco a lei, però viene fuori sempre più spesso come ipotesi lontana, ma viene. Viene perché appunto il ministro degli esteri l'ha lasciata intravedere, perché appunto in un panorama politico quello che bisogna guardare alla fine poi sono i risultati da ottenere, però da un punto di vista etico bisogna anche considerare inizialmente, valutare quali sono i prezzi da pagare. Se i prezzi da pagare sono stragi umane di persone inermi che non hanno di che difendersi, perché o sono fatte scudi umani oppure sono vittime di bombardamenti o di assalti indiscriminati, a quel punto lì non si può giustificare una opzione militare che faccia deserto e terra bruciata pur di fermare dei violenti. A quel punto lì sorge l'opzione nostra, che è l'opzione evangelica, che dice io ci metto la vita, perché la vita mia, il prezzo della mia vita che offro io potrebbe anche dare dei risultati diversi. E la nostra esperienza religiosa di questi giorni, la morte di Gesù Cristo per la salvezza di tutta l'umanità. Al martire può anche essere chiesto questo. Khaled Fouad Alam, molti nostri ascoltatori al 349-238-6666 con gli sms ci dicono vorremmo sentire esponenti forti dell'Islam condannare tutto questo. Accade? Accade, però bisogna stare attento, nel senso che purtroppo nell'Islam non c'è autorità. È molto frammentato e le voci sono sempre delle voci individuali. Ecco, c'è questo fraintendimento, cioè parla Papa Francesco, parla per... Sì, ma non c'è chiesa dell'Islam. Non esiste il corrispettivo in qualche modo. Assolutamente no, nel sunnismo, nello sciismo è diverso perché c'è una gerarchia sacerdotale. È vero anche che manifestazioni di massa non ce ne sono molti. E per quale motivo? C'è la paura, c'è ovviamente anche il fatto che c'è un disagio totale di fronte a ciò che sta succedendo. Eppure, all'interno dell'Islam. Abbiamo visto al di là di Parigi, e lei insegna proprio alla Sorbona, quindi l'ha vissuto direttamente lì, magari ne parliamo tra poco. Abbiamo visto in piazza la Tunisia, abbiamo visto in piazza la Nigeria ieri. 24 mattino. Globale, quale risposta dall'Occidente? Le armi, il dialogo, errori ci sono stati? Un attimo di riflessione questa mattina su questi temi che sono discussi in questi giorni e sui quali in qualche modo prima o poi una decisione dovrà arrivare. Khaled Fouad Alam, dicevamo dell'Islam in piazza, abbiamo visto Parigi, appunto, e lei alla Sorbona insegna, ma abbiamo visto la Tunisia, abbiamo visto la Nigeria, che forse era quella che non ci aspettavamo. Questo Islam in piazza è in qualche modo la risposta? Deve arrivare direttamente da questi paesi la risposta, o è ora che l'Occidente intervenga? No, prima vorrei rettificare, io sono professore invitato alla Sorbona, l'Ecole Patrizia. Sì, sì, sì, e poi insegna anche, anche in Italia, a Trieste. Sì. A Trieste. Ma è una parte della risposta, possiamo dire che è l'inizio di una, della nascita di una coscienza collettiva di fronte a queste problematiche, perché è evidente che bisogna distinguere l'Islam dall'ISIS, perché se cominciamo a fare l'amalgamo questo è estremamente pericoloso, mentre l'ISIS vuole fare l'amalgamo fra Occidente e Cristianesimo, eccetera, eccetera. Dunque bisogna stare attento, però ci sono degli elementi, direi, di timidezza delle piazze oggi che sono legati anche dei fattori culturali. Di tipo globale, viviamo anche in un'epoca in cui si vive la fine delle utopie collettive e la gente scende sempre meno in piazza, eccetera. Poi c'è l'elemento anche che è dovuto ovviamente nei paesi occidentali anche alla paura. Vi assicuro che comunque essere musulmano in Occidente non è facile, perché c'è una paura individuale, però poi c'è comunque una tendenza da parte dell'opinione pubblica europea e occidentale a fare dell'erba un fascio, e dunque è estremamente difficile veramente vivere questa situazione. E poi le prese di posizione sono anche individuali. Io stesso ho scritto, non è soltanto questo ultimo libro, ma è da più di 20 anni che io lavoro su queste tematiche. Però bisogna dire anche un altro fattore, che l'Occidente in realtà non valorizza chi all'interno dell'Islam si batte per il dialogo e la democrazia. Questo va detto assolutamente. Abbiamo parlato di errori dell'Occidente, Monsignor Mogavero, ma ci sono stati in questi anni anche errori della Chiesa? Certamente noi Chiesa non viviamo fuori dal mondo, risentiamo molto dei climi culturali generali nei quali siamo inseriti, e sicuramente l'impreparazione a guardare questo mondo e anche la diffidenza nel cercare un certo dialogo con esponenti religiosi musulmani probabilmente ha determinato certi ritardi da parte nostra. Ma chi sta sulle zone di frontiera, e intendo riferirmi soprattutto alle piccole comunità cristiane che sono in paesi arabi non particolarmente condizionati da situazioni difficili, intendo parlare dei paesi del Maghreb, quest'oggi sicuramente la Tunisia, sicuramente il Marocco e l'Algeria, certamente non la Libia che ormai da anni è in una situazione drammatica, ma in questi paesi sicuramente le condizioni della Chiesa, che è estremamente minoritaria rispetto all'assoluta maggioranza del mondo musulmano, l'aspetto, l'atteggiamento culturale, dialogico, di apertura è totale. Questi non pensano, non riescono a pensare di essere alla vigilia di un annientamento religioso in queste realtà, che una contiguità quantomeno culturale con l'Occidente l'hanno avuta. Per cui da parte nostra credo che appunto dei ritardi li abbiamo avuto, delle insensibilità o dei silenzi li abbiamo avuto, o anche delle resistenze di tipo estremo, così raffrontabili con taluni fondamentalismi religiosi o religioso-politici. Però oggi come oggi le affermazioni di Papa Francesco fin dall'inizio, già quando andò a Lampedusa nel 2013, ma anche i suoi contatti con esponenti qualificati del mondo islamico durante la strage o subito dopo la strage di Charlie Hebdo a Parigi, il Papa ricevette gli esponenti più significativi di talune moschee francesi con esponenti dell'episcopato francese, e questo dice che una certa apertura e una certa sensibilità nuova nel mondo cattolico c'è, e anche nelle gerarchie cattoliche, perché superata la fatica e così un po' la difficoltà di dialogare con un mondo che è molto diverso dal nostro, ci si accorge che da lì bisogna passare, insomma, sì, e che ci sono delle sensibilità e delle zone di attenzione comune. Io per Pasqua ho ricevuto anche gli auguri da parte di qualche esponente musulmano che conosco di rilievo in Italia, per dire le differenze religiose le abbiamo e le abbiamo e abbiamo profonde, però certi momenti non li possiamo ignorare, certi momenti religiosi del mondo musulmano, certi momenti religiosi del mondo cattolico, e questo sicuramente favorisce delle forme così di conoscenza e di disgelo quando la situazione non è drammatica, che può in qualche maniera creare quel canale di dialogo di cui parlava prima e che diceva forse doveva essere però aperto prima. Khaled Fouad Allam, non è stato aperto prima, c'è ancora tempo per aprire questo canale di dialogo con l'ISIS? A questo punto pare difficile. Da dove prende la sua linfa allora? Da questioni sociali, da questioni economiche? Con chi dialogare? Ma a primo punto non c'è alternativa al dialogo, non è un lusso per teologhi o intellettuali, islamologhi o arabisti, è una questione urgente perché proprio noi parlavamo di globalizzazione, ma l'Islam è un fenomeno mondiale, globale, cioè non ha delle popolazioni che sono estese sull'intero pianeta, questo non bisogna dimenticare, e questo ovviamente fa sì che si mescolano appartenenza nazionale, cittadinanza e appartenenza anche religiosa, dunque il dialogo è fondamentale perché il paradigma del convivere insieme all'interno dei singoli stati e non solo. Da dove partire? Ma c'è ovviamente il problema della sicurezza che non bisogna assolutamente dimenticare. Esatto, cioè c'è chi dice con l'ISIS sì, ha voglia di parlare, lì c'è solo l'opzione militare. Sì, ma si deve lavorare su due fronti, ovviamente la questione della sicurezza che mi sembra ineludibile, mi sembra evidente che sia intervento armato o un intervento armato mi sembra fondamentale, mi sembra anche che tutte le legislazioni europee tendono ovviamente a definire gli apparati legislativi per ovviamente aumentare la sicurezza per una questione politica ma anche sociale, però di pari passo va fatto, e anche lo dice anche il ministro, un lavoro a livello socioculturale, e questo su questo aspetto siamo totalmente deficitarie. Noi abbiamo bisogno di esperti, abbiamo bisogno di valorizzare le componenti all'interno delle nostre società che condividono totalmente i valori delle democrazie moderne, ma su questo non si lo fa. Io vorrei vedere anche nella stessa Italia, cioè nella classe dirigente, ma quanti sono anche nelle università, le contiamo sui diti della mano, ecco, la gente che vengono da altri orizzonti, siamo molto carenti. E in Francia, ad esempio, il ministro della ricerca scientifica ha affermato poche settimane fa che c'è bisogno di esperti del mondo arabo islamico, che ci saranno reclutamento anche di esperti e formazione soprattutto. Però forse la Francia è qualche generazione più avanti. Ma non è questione di non bisogna più ragionare così, superato questo tipo di ragionamento. Il problema è globale, perché viviamo nella transnazionalità, si passa da un paese a un altro paese, l'Unione Europea è questo. Non possiamo più permettercelo. Assolutamente, e noi in Italia purtroppo noi facciamo molto bla bla bla bla bla bla, ma dal punto di vista delle politiche di integrazione siamo veramente ancora molto ma molto indietro. Mi dispiace dirlo, ma ad esempio dei paesi come il Danimarca, che hanno pochi immigrati, gli immigrati sono molto più avanti di noi, e noi che siamo praticamente di fronte al Mediterraneo e siamo delle relazioni storiche con il mondo musulmano, Monsignor Mucavero è vescovo di Mazara del Vallo, e sulla frontiera I musulmani sono stati presenti 3 secoli e mezzo in Sicilia, cioè non bisogna assolutamente occultare questa dimensione, però noi non lo sappiamo capitalizzare, in Italia non lo sappiamo capitalizzare, e io aspetto dal nostro governo un'idea nuova. Monsignor Mugavero è d'accordo? Un vettore portante del dialogo. Monsignor Mugavero è d'accordo? L'Italia per la sua storia può fare da vettore portante del dialogo? Ma sicuramente, noi sappiamo quanta considerazione e quale uso fa l'ISIS dei social network e della comunicazione globale. Quando questi signori si accorgono che tutto quello che fanno lascia praticamente in silenzio in un silenzio che non è attonito o sgomento, ma in un silenzio così passivo e omissivo l'Occidente, è chiaro che loro sentono quasi una forza e una volontà di continuare su quella linea. Su quella strada. Loro che conoscono tutto dovrebbero poter vedere come le nostre piazze, non soltanto Parigi per Charlie Hebdo, ma anche le nostre piazze si riempiono e fanno sentire voce di popolo, non voce di cristiani soltanto, voce di popolo che invoca delle strategie di rispetto per la persona, al di là di quelle che sono le sue esperienze di fede, perché uno dei rischi è quello di radicalizzare il discorso e dire è quello che dicevamo, Islam contro cristianesimo, dietro c'è molto altro. Allora, grazie Khaled Fouad Allam per essere stato con noi, grazie a Monsignor Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo. La discussione è molto più ampia, magari ci sarà anche occasione di ritornarci. Grazie intanto questa mattina. 24 mattino. Allora, rientriamo a 8:47 minuti. Un ascoltatore ci ha chiamato, Cristian da Verona, buongiorno. Buongiorno. Prego. Sì, niente, io volevo portare il mio contributo riguardo a quanto ho sentito poc'anzi dei vostri ospiti. Scusate, ho dovuto correre. Sì. Niente. Noi ci occupiamo come organizzazione della persecuzione dei cristiani in vari paesi, circa una sessantina, e ho sentito dei buoni interventi riguardo il tema di oggi. Volevo solo aggiungere che spesso si parla di persecuzione dei cristiani in seno al cattolicesimo, mentre ha citato Nigeria come paesi. Dove. Beh, non ci sono solo i cattolici, abbiamo parlato di cristiani in senso lato. Sì. Però giusto come appunto questo aspetto va considerato, nel senso che dà un quadro più ampio, specie di quanto certo, sta accadendo in Nigeria. Certo, non sono solo i cattolici, sono sì. I cristiani in generale, proprio perché dicevamo spesso si sovrappongono le due cose, come d'altra parte però facciamo anche noi quando parliamo di Islam. Grazie a Cristian da Verona, anche i vostri contributi come sempre ben accetti in questo spazio. Avevamo annunciato, però siamo riusciti a raggiungerla, eccola, Silvia Sardone, segretario di Forza Italia Sesto San Giovanni, consigliere di zona 2 a Milano. Buongiorno. Buongiorno. Sono allora, in treno. Eccola. A quest'ora si viaggia. Dove sta andando? Al lavoro. Al lavoro. Sono partita stamattina alle 6 per andare al lavoro, quindi sono quasi arrivata a Milano. Beh, siamo in molti ad essere svegli da prestissimo. Non è un po' lungo il passo dalla poltrona di consigliere di zona a Milano alla ribalta nazionale? È riuscita a far arrabbiare tutti nel suo partito? Beh, tutti non penso. Penso che gli amministratori Tanti. Locali la pensino come me. E comunque sono seduta ancora dove ero seduta prima, quindi... Beh, ma perché non ci sono ancora state elezioni vicine, insomma. Ma nel senso che io comunque ho posto un tema e per questo sono stata attaccata, che è quello del rinnovamento, che però è stato di fatto applicato in tutti i partiti tranne il nostro, quindi non ci vedo nulla di male. Chi si incavola deve spiegarvi le ragioni. Deve partire dai comuni questa cosa. Renzi ha rottamato tutti dalla poltrona di Firenze, lei l'ha rottamata. ma anche nel suo partito, però, se non ricordo male, c'era qualcuno che voleva non rottamare ma formattare da Pavia. Beh, a me non interessa né rottamare né formattare, no. Mi interessa che il partito non finisca con il morire lontano dai cittadini. Penso che dobbiamo ricominciare ad avere il rapporto con loro, l'umiltà di ascoltarli, la presenza sul territorio, parlare di temi di centrodestra, che comunque sono tutte cose che non stiamo facendo più. Senta, perché la invitano ovunque? L'abbiamo fatto anche noi, d'altra parte. Perché l'avete fatto? Forse perché semplicemente porto la mia esperienza di amministratore locale e non ho paura di dire quello che molti pensano. Ma perché fa così paura quel che lei dice nel suo partito, secondo lei? Forse perché siamo partiti nel 94 come il partito delle persone non politicanti e poi alla fine lo siamo diventati. Non è il rischio però che si corre, insomma, parliamo del 94, siamo nel 2015, infatti, non so quanti anni avesse lei nel 94. No, certo, ma noi dobbiamo guardare al futuro, non stare ancora, non può essere il nostro orizzonte il 94, ovviamente. E appunto per quello io dico che è necessario ripartire dai territori e dall'ascolto dei problemi dei cittadini, altrimenti se ci chiudiamo in convegni, aperitivi e salotti, non cioè la finiamo qui. Lei ha detto che c'è un'OPA di Salvini. Beh, sicuramente noi abbiamo lasciato uno spazio incredibile a Salvini per il fatto che abbiamo smesso di trattare i nostri temi come la pressione fiscale, la sicurezza, la stessa immigrazione o il lavoro, quindi lui si è preso questi spazi, ma glieli abbiamo lasciati noi. Lo sa che anche Salvini ha cominciato dalle piccole poltroncine di Milano? Lo conosco, sì, beh, dall'attività sul territorio direi più che piccole poltroncine, perché sa, fare il consigliere di zona insomma non è proprio una poltrona così comoda, mettiamola così. Ma lei conosce Maria Rosaria Rossi, eppure tutti dicono che in Forza Italia comanda lei. Chi comanda? Ma guardi, secondo me la persona che prende ancora le decisioni, l'ultima decisione l'ha sempre il Presidente. Sicuramente la Rossi è una persona molto vicina e stimata al Presidente, ed è stata proprio lei a lanciare il limite dei mandati, tra l'altro, che io condivido. È vero che potrebbe essere il suo il nome per la corsa al sindaco di Milano? Io sono a disposizione del partito, detto questo io correrò in comune per le amministrative e come consigliere comunale. Poi voglio dire, se ci saranno altre proposte, penso che a qualsiasi persona della mia età che fa politica sul territorio sia solo onorata del fatto che si pensi una cosa del genere. Ma se glielo chiedessero? Se me lo chiedesse il partito direi ovviamente di sì. Ma lei il mio posto cosa direbbe? Ma tutto sommato le piacerebbe, beh. Ma guardi, la vedo veramente un fantapolitica, perché al momento non è così, ma ovviamente sì, è la mia città, lei non vorrebbe amministrarla. Sì, intanto è che mi candido in consiglio comunale. Ma non mi dica che le basta a questo punto, dopo questa vetrina, davvero la poltrona di consigliere comunale a Milano? O sì? Beh, quale altre vede adesso? Io non ne vedo molte altre, quindi quella sarà sicuramente il mio prossimo passaggio. Tenterò, tra l'altro non sarà neanche facile, quindi io punto a quello. Quali sono le critiche che l'hanno fatta arrabbiare di più in questi giorni? Ah, le critiche che mi hanno fatto arrabbiare di più, molte. Ne ho letta una che parlava della che prima bisogna fare militanza. Beh, caspita, io sono tesserata da quando ero minorenne e ho attaccato più manifesti io di tutti quelli che dicono una cosa del genere. Ho fatto centinaia di banchetti, sono stata considerata la movimentista proprio per i banchetti e il numero di banchetti fatti su Milano, che prima non erano mai stati in tale numero. Sono molto presente sul territorio, ho record di mozioni e interrogazioni, sono 10 anni in consiglio di zona, mi perdoni, guardi, ricevo tutti i giorni le telefonate per le buche da riparare, non penso che questo mi possa essere. Si farà l'alleanza con la Lega? Ma sui territori c'è già, io quando faccio le mie battaglie ho sempre la Lega accanto, poi a livello nazionale ovviamente sono altre le logiche, ma mi sembra una cosa assolutamente sensata, l'abbiamo sempre fatta, perché no? E su base nazionale? Perché no, l'abbiamo sempre fatta, c'è sempre stata l'alleanza con la Lega anche a livello nazionale, quindi perché no? Non basta trovare programmi comuni, ma sicuramente, voglio dire, meglio la Lega del Partito Democratico. Senta, Renzi è partito come così, lei dove si vede fra un po' di anni? E in quale partito? Intendo. Brava, con quale linea? No, è questo il punto, guardi, io vorrei continuare a fare politica. Questo, la mia battaglia è proprio per questo, io vorrei continuare a fare politica e spero di farla ancora nel partito, ma il partito deve rimanere, deve esserci anche dopo Berlusconi. Insomma, noi dobbiamo essere in grado di non pensare sempre che ci sia Berlusconi salvifico, che c'è e meno male che c'è, però anche ognuno di noi deve imparare a dare il proprio contributo, non vivendo di rendite di posizione. Allora, non so se dopo questa chiacchierata, veramente una chiacchierata, arriveranno altre critiche. Ma sicuramente sì, guardi. Però se è questa la strada, mi sa che si deve preparare. Che io dormirò ugualmente, quindi... Grazie intanto. Grazie, Silvia Sardone, grazie. Segretaria di Forza Italia Sesto San Giovanni, consigliere di zona 2 a Milano. Chiudiamo qui anche questa mattinata, ci sono già i colleghi del giornale radio pronti che ci aspettano. Carmelo Lauricelli in regia, Alessandro Longoni, Lorenzo Nespoli, ci siamo tutti, squadra pronta anche per domani. Ci ritroviamo domani, un saluto da Anna Migliorati.